that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby head. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo con la testimonianza di un'operaia in una fabbrica del nord negli anni 60. Mi sono fatta mettere in malattia. Con l'aria condizionata, le luci al neon e i telai c'è da impazzire. Il reparto noi lo chiamiamo Mauthausen. Ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Abbiamo aperto con la testimonianza di questa operaia perché abbiamo deciso di dedicare questa trasmissione al lavoro. Ogni volta che scegliamo l'argomento della trasmissione non sappiamo da dove cominciare, perché ci sarebbe talmente tanto da dire e gli argomenti sono talmente tanti che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Però abbiamo trovato una notizia particolarmente, diciamo, rabbrividente, che ci ha portate oggi a parlare di lavoro. Allora, la notizia qual è? Già nel 2013 Apple stava progettando il computer indossabile, no? Infatti troviamo un articolo del 2013 che dice: Apple brevetta alcune tecnologie per il monitoraggio da remoto di persone e oggetti. È il preludio per un lontano computer indossabile. Potrebbe presto Apple sempre convertirsi alla tecnologia indossabile. Non si tratta di un segreto. In realtà, secondo le indiscrezioni che circolano da diversi mesi, è il progetto che si dirige in questa direzione. E c'è un gruppo di brevetti recenti che confermerebbe questo percorso, no? E quindi sono le basi per queste tecnologie che definiranno in futuro i computer indossabili. Apple dice che vuole concentrarsi soprattutto su piccole cose utili agli sportivi, al monitoraggio della salute, alla trasformazione dei movimenti umani in controlli digitali. Quindi, come al solito, queste sperimentazioni sono sempre mascherate da ottimi e nobili intenti, cioè salvaguardare i bambini che si perdono, contro l'abbandono dei cani, contro la violenza alle donne, per la tutela, appunto, e per la prevenzione di eventuali malattie. Aiuto, no? Ogni volta che cominciano con questi discorsi è un problema. E poi ci sono due grossi gruppi che si stanno occupando di questo e si starebbero orientando su due grandi tipi di applicazioni elettroniche: il monitoraggio del movimento e il monitoraggio degli eventi. E quindi stanno, diciamo, brevettando strumenti adesivi come dei cerotti simili alle bande utilizzate dagli sportivi per evitare danni muscolari. In ognuna di queste strisce sarebbe contenuto un processore, un trasmettitore wireless e una piccola batteria. Il circuito nel suo complesso comunica con un'unità ricevente, come ad esempio un computer, e dà informazioni sulla temperatura dell'ambiente, l'umidità, la tipologia del movimento svolto, la velocità e così via. In questo caso la tecnologia si adatta all'analisi di come un corpo si muove nello spazio e può essere applicata anche a oggetti inanimati, come ad esempio misurare l'attrito con il terreno e qualsiasi altro ancora. E poi con strumenti molto simili ai precedenti si possono rilevare il battito cardiaco, la pressione, la temperatura interna, la perdita di liquidi e molto altro ancora. Praticamente è il primo passo per trasformare un dispositivo elettronico in una seconda pelle, in un nuovo vestito per l'utilizzatore. E invece per tornare ai giorni nostri, quindi notizia di marzo di quest'anno, abiti luminosi e computer indossabili arrivano le stoffe ai tech. Conoscerete senz'altro il modo di dire brillare di luce propria e prossimamente potremo aiutarci anche con gli abiti, quindi anche ce lo propongono pure in maniera figa, no? Brilliamo tutti quanti. Sono infatti pronte le prime stoffe che si illuminano per abbigliamento high-tech, costituite da fibre speciali di 1 millimetro di spessore che emettono luce colorata. Si tratta delle più note nanotecnologie messe a punto da un team di ricercatori di Shanghai. E si aprono quindi le porte della produzione su larga scala di tecnologie indossabili, per cui insomma tramite queste fibre che si chiamano PLEC sono l'ideale per sarebbero dei futuri computer indossabili nascosti sotto ovviamente le spoglie, no? Le mentite spoglie di normali abiti. E quindi insomma quello che, di cui parlavamo prima effettivamente poi si è realizzato, insomma, quindi insomma diciamo che il quando leggiamo queste notizie, in realtà poi il nostro intento è quello anche di sottolineare il fatto che comunque sì, non è che siamo primi di vista, non vogliamo la tecnologia, però il problema è che la tecnologia è frutto, no, di quello che è il controllo sociale. E infatti questa è la notizia dell'ultimissima ora, cioè del 25 maggio 2015, ed è uscita sul Financial Times, che è la Bibbia del neoliberismo, ed è un articolo di un certo Robin Wong. Dice: alcuni esperti pensano che la tecnologia indossabile, dai monitor del sonno alle fasce nel fitness, potrebbero essere la prossima frontiera nel modo in cui le società controllano i loro dipendenti, ulteriormente sfumando la linea di demarcazione fra lavoro e vita privata. Nei prossimi 4 giorni Sarah O'Connor, giornalista del Financial Times appunto, porterà dispositivi indossabili mentre lavora per vedere se i dati personali generati sono davvero utili ai dirigenti e se i dipendenti possono imparare a convivere con questa tecnologia. Yeah. Voi capite che ci sono state poi anche delle sfilate di questi abiti luminosi e non, e comunque con tutti questi, chiamiamoli micro, queste nanotecnologie inserite, che sono in grado di monitorare sia tutta la parte sensoriale, cioè se una persona è emotiva, non emotiva, il battito cardiaco, se si sta arrabbiando, se è arrabbiata, che tipo di reazioni ha quando incontra delle cose, quando incontra delle persone, no? E poi anche tutti gli spostamenti da un posto all'altro, il tempo di permanenza in un posto, il tempo di permanenza in altro, e anche addirittura di mettere in relazione il tempo di permanenza in un posto e la reazione emotiva, il tempo di la modalità di lavoro e la reazione sensoriale positiva o negativa. Quindi addirittura il dipendente dovrà fare un'operazione di violenza su se stesso, perché non potrà neppure lavorare diciamo emotivamente disturbato o contrariato, no, dovrà anche dimostrare di essere felice. Proseguiamo con appunto sempre sul lavoro, quindi notizie di attualità. Sicuramente l'avete già sentito, Expo, avete partecipato a un corteo, licenziate 600 persone. Sono ben 600 i lavoratori licenziati dal 30 aprile scorso ad oggi dalla società Expo Spa, a seguito dei controlli effettuati dalla Questura di Milano. Questa notizia, che circola da alcuni giorni sulle principali testate giornalistiche, è ulteriormente confermata dall'incontro tra i sindacati e prefetto e Expo e le associazioni di imprenditori lombardi. Quindi sono 60.000 le persone controllate in vista dell'inaugurazione di Expo dalla polizia dal 2013 ad oggi, e circa 6.000 gli aspiranti lavoratori che tramite la società di gestione di Expo hanno inoltrato una richiesta di accredito. Tra questi 600 non hanno ricevuto la tessera di accesso diretto. Tra questi 600, scusate, hanno ricevuto la tessera di accredito a seguito del diniego dato dalla Questura milanese, incorrendo quindi in licenziamenti, non assunzioni, nonostante il percorso formativo e non rinnovi di contratto. Il motivo di questo filtro, a quanto dichiarato dai vertici della polizia, svoltosi in prefettura, è da ricercare nel fatto che Expo, obiettivo considerato sensibile dall'intelligence nostrana, è stato altresì dichiarato sito strategico di interesse nazionale, il che significa averlo elevato a luogo di interesse militare dello Stato e quindi gestibile solo secondo precise leggi e disposizioni. Se questa definizione può tutelare Expo Spa in sede legale per la non assunzione di coloro che hanno precedenti penali o carichi pendenti, non spiega però come mai centinaia di aspiranti lavoratori con la fedina penale pulita e senza procedimenti in corso si siano visti negare la possibilità di accedere ad Expo. La ragione, a detta dei sindacati e delle persone che sono state licenziate, è da ricercare nelle verifiche che la polizia ha effettuato sulla SDI, il sistema di indagine, ossia la banca dati della Polizia di Stato, e si deduce come semplici segnalazioni di partecipazioni a cortei o l'attivismo in associazioni e realtà politiche per diritti sociali siano elementi da considerarsi a rischio. Da considerarsi a rischio e le persone segnalate non meritevoli di accedere alla kermesse internazionale. Nessuna certificazione, quindi, semplicemente una presunta pericolosità sociale dedotta appunto dall'appartenenza politica registrata dalla polizia italiana sul loro banca dati. Una violazione ovviamente senza precedenti, che ovviamente, come dicevamo, insomma, fa il paio con la notizia precedente, per cui ti misurano addirittura le emozioni, quindi insomma nemmeno devono andare nella banca dati a ricercare le tue idee politiche, ma le capiscono, no, dal tessuto che indossi. Questo ovviamente fa il paio con quello che è il anche tutta la questione del Jobs Act, no? Cioè, nel senso, a questo punto tanto loro possono licenziarti quando ti pare, quindi perché non licenziare per motivi politici, cioè nel senso palesarlo, perché non che non succedesse, il modo l'avranno anche trovato precedentemente, però qui lo stanno proprio dicendo in maniera palese, senza nessuna copertura, che è appunto è una decisione strumentale a anche definire, capito, sito strategico nazionale l'Expo, che nel senso l'ultima volta che ricordo, insomma, di una cosa, insomma, anche l'articolo lo dice, è il cantiere TAV alla Maddalena di Chiomonte, cioè che comunque anche lì eravamo completamente d'accordo sul fatto che comunque una parte di una montagna diventasse una zona rossa, e l'abbiamo ritenuto e contestato in tutte le maniere, in tutte le salse, in tutte le parole possibili. Figuriamoci un Expo dove appunto ci stanno gli stand per Magnà. Chiaramente noi dovremmo un attimo fermarci a riflettere sul cambiamento epocale che stiamo attraversando, perché tutte queste cose che noi di cui noi abbiamo parlato adesso, no, tutte queste notizie, ma chiaramente queste sono soltanto un ambito ristretto che noi abbiamo preso oggi, ma se volessimo potremmo allargarlo tantissimo, dimostrano che la borghesia sta disattendendo completamente i principi a cui lei stessa si era informata e aveva informato la società e comunque il suo agire politico e sociale dopo la rivoluzione francese, dopo i moti del 48, cioè quella che era la tutela dell'individuo, l'esaltazione della libertà individuale, la divisione dei poteri. È saltata addirittura qui, appunto, per parlare di un ambito ristretto e circoscritto, si licenzia per idea politica, si licenzia per emozioni personali, si licenzia per scelte individuali fatte, si licenzia per quello che si è e non per quello che si è fatto. Questo ci dovrebbe far capire la mutazione genetica che ha avuto la borghesia e la sua trasformazione in un'aristocrazia feudale, cioè quest'iperborghesia transnazionale che sta ridefinendo i rapporti di forza anche all'interno della stessa borghesia, e quindi proletarizzando molti strati di quelli che erano un tempo l'asse portante della borghesia, e quindi la borghesia proprio, diciamo, la classe al potere si sta ridefinendo pesantemente. È in questo contesto che noi dovremmo cercare di leggere quello che ci succede intorno. Eh, Tanto per passare ad una notizia di sfruttamento che ci riguarda molto più da vicino, di genere, perché poi non solo si incrocia la vessazione riguardo a tutti, sia sulle libertà individuali, sia sulle idee personali e compagnia bella, ma poi noi abbiamo sempre una componente di genere molto forte e di oppressione molto forte che salta fuori sul lavoro in maniera prepotente. E a questo proposito c'è una notizia che vogliamo darvi. È iniziato al Tribunale di Bologna, con l'udienza preliminare, il dibattimento rispetto ai fatti della IUX e sulla denuncia presentata da parte di diverse lavoratrici nei confronti di uno dei responsabili della cooperativa Mister Job, tenutaria dell'appalto IUX all'Interporto. Le ragazze stesse si sono costituite parte civile, venendo ammesse in quanto tali dal giudice. La vicenda della IUX fece molto scalpore negli scorsi mesi, dato che intrecciava diversi livelli di sfruttamento e malversazioni sul lavoro. Una vicenda che creò un'ulteriore evidenza di quanto avviene nel mondo della logistica e degli appalti ad essa collegati. Un mondo che continua ad agire con modalità quantomeno torbide e che anche oggi ha visto una perquisizione nella sede di Manutencoop, nell'ambito della nuova tranche di arresti per mafia capitale. Ricordiamo che alle dipendenti erano richieste prestazioni di schiavismo puro, come ad esempio rispettare un tempo di imbustamento di 32 secondi a capo, con il divieto di poter andare in bagno in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo. Il tutto in un ambiente lavorativo in cui venivano ripetutamente insultate con frasi inaccettabili del tipo «Sono io il vostro Dio, non me ne frega un cazzo del vostro Ramadan». L'inizio del processo è stato fissato per il 15 ottobre. Voi vi rendete conto che se le facchine della IUX non potevano andare in bagno se non avevano raggiunto l'obiettivo, figuriamoci con l'abito da lavoro computerizzato che livello di schiavismo può venire di schiavitù e può venire fuori. Que todo lo que pasa a mí solo me sirve para La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Governabilità. Una parola viene ripetuta continuamente dai media di regime e da tanti troppi politici. Governabilità. Cioè mettere in condizione l'esecutivo di lavorare senza gli intralci che derivano dalle dinamiche che possono scaturire da una votazione elettorale incerta e magari da un Parlamento frammentato e variegato. Una preoccupazione che da sempre accompagna le pulsioni antidemocratiche, e qui stiamo parlando molto semplicemente di democrazia parlamentare. È chiaro che la governabilità, nel momento più alto della sua realizzazione, si manifesta nella dittatura. Questo è il senso di tutti gli stravolgimenti costituzionali che sono stati attuati, degli adattamenti del sistema elettorale, con la tendenza verso un sistema politico il più vicino possibile alla dittatura nella versione che in Europa c'è stata negli anni di Salazar in Portogallo. L'ingegneria elettorale non è neutrale. Il senso degli sbarramenti, dei premi di maggioranza e del tentativo, peraltro riuscito, di irretire la discussione sui numeri delle percentuali nasconde l'obiettivo di avere un esecutivo che possa decidere senza l'intralcio della dialettica parlamentare. In questo quadro il sistema bicamerale non serve più. Il Senato viene trasformato in una Camera delle corporazioni e il Parlamento in un'istituzione vuota di ogni potere decisionale. Si maschera volutamente che la governabilità o il governo di un paese non è nell'empirio delle idee e delle azioni, ma è al servizio delle classi dominanti o di porzioni di esse. La domanda che ci dobbiamo fare non è se c'è o non c'è la governabilità, ma di che cosa e di chi è al servizio. La governabilità a tutti i costi è il grimaldello usato dal neoliberismo per rimuovere ogni forma, anche limitata e parziale, di sovranità popolare. Questo è il senso dell'abolizione del proporzionale e dell'immunità parlamentare. L'obiettivo è di arrivare a due partiti che falsamente si definiscono alternativi e che invece si offrono come alternanza in un quadro unico dominato dagli interessi delle multinazionali. Da qui la guerra senza quartiere a tutte le forme organizzative che si oppongono al neoliberismo, e in questo scenario si colloca naturalmente sostenere e caldeggiare il sindacato unico. Il modello è quello americano, uno scenario in cui la quasi totalità della popolazione è spinta nella più profonda miseria, senza sicurezze sociali, sanità pubblica, istruzione, in cui la democrazia sociale, e stiamo sempre parlando della democrazia borghese, non è più perseguita, anzi è perseguitata e demonizzata come frutto del comunismo, e con questa parola magica relegata nell'ambito delle cose obsolete e dannose. E sempre all'interno del modello parlamentare borghese è necessario ribadire il livello minimo di difesa, vale a dire la salvaguardia della Costituzione, colmando quel ritardo che c'è sempre stato tra la Costituzione scritta e quella materiale. Il ritorno al proporzionale puro, l'immunità parlamentare, da sempre garanzia per la minoranza e per gli oppositori, e il fatto che qualcuno ne faccia cattivo uso non toglie nessuna validità al principio. Le liste dei candidati e la composizione delle Camere non possono e non devono essere decise dalla magistratura, e non ci deve essere nessun ostacolo alla candidabilità o alla eleggibilità di qualunque cittadino. L'accettazione dell'esistenza di uno Stato si basa sulla rinuncia a porzioni di libertà in cambio della garanzia di servizi sociali, sanità, istruzione, pensioni, liquidazione. Se il patto sociale si rompe su tutti i piani. Oggi sono attaccati e messi in discussione i valori della resistenza espressi nella Costituzione e addirittura i principi nati dalla Rivoluzione francese e dai morti del 48. Questo a conferma che è nata e si sta imponendo una borghesia transnazionale o iperborghesia che ha assunto tratti di aristocrazia e che è guidata dai valori neoliberisti. Per sperare di bloccare la realizzazione del progetto neoliberista dobbiamo lottare qui da noi contro il PD, che questo progetto ha il compito di naturalizzare nel nostro paese. Non è Renzi che deve andare a casa, ma il PD tutto, con le sue associazioni contigue, colluse, comunque si chiamino, e tutto il discorso politico-culturale che da quell'area viene portato avanti. Ciao. The lights are on. Ed eccoci qui alla seconda parte della nostra trasmissione, che è sempre sul lavoro e con le premesse di tutto quello che abbiamo detto nella prima parte. Facciamo una specie di analisi sul campo, perché ci confronteremo adesso con una compagna che ci racconterà direttamente la sua esperienza lavorativa e quello che succede poi realmente a chi in questa società cerca, trova e lavora anche in condizioni, cioè lavori di minima, non lavori chissà che importanti. Ciao. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ecco, io ho pensato di scrivere, di buttare giù qualche riga in seguito ad un'esperienza che ho vissuto nel posto in cui lavoro. Praticamente si tratta di un cosiddetto corso di formazione organizzato appunto dalla dirigenza del posto in cui lavoro. Si tratta di un bar praticamente. E questo corso di formazione viene organizzato, come detto, dalla dirigenza e tramite una società di consulenza aziendale, perché i titolari praticamente hanno, come dire, si avvalgono di questa società di consulenza aziendale fatta di essenzialmente di psicologi del lavoro, di sociologi, immagino filosofi, economisti, eccetera, comunque persone che sono specializzate in questo, nel settore delle risorse umane, nella gestione delle risorse umane. Il famoso lavoro intellettuale, sì. Questo è dei laureati che fanno poi, che vengono usati per gestire, sì, lavoro, certo. I lavoratori. E questo corso di formazione praticamente è consistito in una giornata si è svolto nell'arco di una mattinata ed ha coinvolto sia noi dipendenti, un gruppo di diciamo una decina di persone, sia la dirigenza. Rendiamoci conto, tanto per non perdere la dimensione della cosa, che qui stiamo parlando di un bar. Sì. Di una struttura di ristorazione a questo livello, quindi non è una grande azienda, no. Non è una struttura di peso con non so quanti dipendenti, è un infatti bar. Quando ce l'hanno accennato io sono rimasta un po' sorpresa, un corso di formazione, ma nemmeno ti riesci a rendere conto di che si può trattare, perché un corso di formazione all'interno di un tipo di posto di lavoro in cui trattano formare. Insomma caffè eccetera, è un po' strano. E quindi ecco, questo corso di formazione si è svolto in questo modo, in tre parti fondamentalmente. La prima parte in cui i consulenti hanno introdotto la giornata dicendo perché secondo voi siamo qui, perché, e loro si sono dati la risposta, perché l'azienda vuole supportarvi nel vostro percorso di formazione, perché comunque è un'azienda in ampliamento che si vuole ampliare, quindi vi vuole seguire nella vostra crescita professionale eccetera eccetera. La seconda parte si è trattata di è consistita nel autopresentarci, ognuno insomma ha parlato di sé in brevemente, in qualche minuto, presentando un po' davanti a tutti, sì, ognuno il proprio percorso professionale, un po' come era arrivato insomma a fare quel tipo di lavoro lì eccetera. Dopodiché la terza parte consiste in un lavoro diviso in gruppi in cui noi dipendenti abbiamo avuto il compito di descrivere un po' il nostro ruolo, cioè che tipo di lavoro facciamo, quali sono le nostre responsabilità, qual è il nostro lavoro, cioè in punti descrivere tutte queste cose e per poi presentarle ciascun gruppo tramite un rappresentante lo presentava agli altri, quello che insomma aveva elaborato il gruppo. La fine di tutto ciò, cioè la candelina la ciliegina sulla torta, è dopo aver discusso e illustrato questi elementi arriva la parte dei consulenti in cui dicono ok, voi avete scritto questo, adesso noi vi presentiamo questo bel mi viene il termine, un questionario, no? La job description si chiama, no? In termine tecnico, cioè quale sarebbe precisamente quale deve essere il vostro ruolo, cioè qual è la vostra La vostra mansione, sì, qual è la vostra, il vostro lavoro in poche parole. Poi c'è un uso dei termini inglesi, sì, molto continuo, sì, sì, sì. Per confondere le idee, certo. Beh, no, per dare un tono molto professionale, sì. E molto più di spessore di quello che è invece. Molto più free, molto easy. Sì. Più che altro perché effettivamente sono state i paesi anglo-americani a inventarsi, sì, comunque metodi di controllo sul lavoro, quindi, cioè, nel senso, grazie, certo, al cavolo. Giusto. E quindi in maniera molto friendly ci dicono: ecco ragazzi, questo adesso vi illustriamo noi invece che cosa dovete fare voi. E vi posso leggere un po' in che cosa ha consistito questa job description. Inizia così: titolo della posizione, operativo barista, no? Sì. Requisiti professionali richiesti: titolo di studio, ok, conoscenza dell'inglese, eccetera. Cioè, titolo di studio adesso proprio come partenza, per fare l'operativo barista è richiesto un titolo di studio e la conoscenza dell'inglese, sì, già questo, sì, mi piace. Ma la cosa più paurosa viene dopo. La seconda riga dice: requisiti fisici, 8 ore in piedi, sollevare pesi di 10 kg. Caspita. Cioè, questo che significa? Significa che tu devi dare per scontato che nel tuo lavoro, se vuoi mantenerti quel posto di lavoro, devi accettare di poter restare 8 ore in piedi nonostante il contratto prevede solamente 6 ore e 40 al giorno. Ah, quindi ufficiale 6 ore e 40, sì. Loro ti fanno un questionario in cui ce ne sono previste 8. Dice 8 e puoi sollevare, devi poter sollevare pesi fino a 10 kg. Ok, questo, ma chi lo dice? No, lo, dice appunto, tu, lo dici tu, società, certo, di consulenza. Ok, passare avanti, dimensione della posizione. Beh, per esempio, c'è scritto qua il questionario che ho sotto mano: no fumatori. Sì, uno dei requisiti deve essere che non fumi. È preferibile che tu non fumi, perché anche secondo me questo prima è tutto pauroso, perdi perché tempo. Sì, fai pause, brava. Se fumi fai le pause. Poi magari, certo, vai anche al bagno, quindi vai. Dimensione della posizione, e qui viene descritto, ad esempio, il numero di collaboratori con i quali lavorerà di volta in volta sarà deciso dai manager, ok? Secondo quindi punto. C'è un livello gerarchico all'interno, sì, di questa struttura. Questo viene sottolineato, il fatto che tu devi riconoscere la struttura gerarchica già stabilita, questo viene sottolineato più volte, infatti va avanti così. La turnazione, il piano turni verrà deciso dagli executive, cioè dai dirigenti, e comunicato dal manager di negozio. Lo scopo, finalità della posizione, sempre del banchista, no? Assistere, gestire la clientela, interfacciarsi con il manager per eccellenza e problematicità. Poi la descrizione delle attività: promuovere la cultura e i valori dell'azienda. È pazzesco, nel senso che è pazzesco, fa parte, questo è proprio il nodo del neoliberismo, che tu devi essere partecipe delle sorti, devi interiorizzare i valori dell'azienda. Gestire le operazioni con passione. Chiaramente quando tu servi qualcuno devi dire: questo è il nostro prodotto, è tuo anche, certo, tuo. Il nostro. Cioè, hai interiorizzato che il cappuccino, certo, è anche tuo, sì. Certo. Gestire le operazioni con passione, integrità e competenza. Poi, per andare avanti, saper lavorare in team con armonia, perché comunque, ecco, non devi creare problemi, questo è sottinteso. Segnerà le problematiche al manager di riferimento, e questo apre quindi un discorso un po' più ampio, no? Del fatto che se tu sul lavoro hai un problema, con chi devi parlare? Non è che ne parli con il tuo collega, no? Il tuo compagno di lavoro, ne parli con il manager, ma certo, certo, è scontato. La struttura è sia gerarchica, sia di controllo, sia una paternità che viene riconosciuta all'azienda, una grande famiglia, insomma. Che vuoi scherzare, che vuoi parlare con il tuo collega, no? Parla con il manager, perché, certo, lui risolverà i tuoi problemi. Un altro tipo di attività che è prevista è di mantenere il negozio pulito e ordinato. Questo, secondo me, che cosa sta a sottintendere? Che tu, dipendente, hai, comunque è sottinteso che devi mantenere il negozio pulito, e quindi se per caso c'è il bagno sporco, che dopo qualche ora di lavoro, visto che c'è stata parecchia gente, è in condizioni pietose, devi comunque andarlo a controllare, se sporco prendere e pulirlo, nonostante magari è un turno che non è di chiusura e quindi non prevede questo tipo di... Io ho notato anche quando vado a fare la spesa al supermercato che i ruoli sono scambiabili, nel senso vedo che chi sta alla cassa poi va al banco, poi va a mettere a posto il pesce e poi pulisce per terra, cioè questo è... Sì. E poi qui si aprirebbe anche tutto il discorso sul fatto che comunque l'azienda non prende una, magari un, non assume delle persone che sono addette alla pulizia e basta. Cioè tu che fai la dipendente vuoi, sei anche donna delle pulizie, pulitrice. In questo caso proprio sì. Sì. Mm. Profilo delle competenze, qui quindi andiamo sul campo delle competenze che devi poter avere. Conoscenza delle regole e lavorare per linee guida, conoscere la cultura e i valori dell'azienda, qui di nuovo, conoscere la struttura gerarchica e capacità di gestire lo stress, anche qui. Questo è pazzesco comunque. Vogliamo dire qualcosa su questo? sì, perché praticamente la capacità di gestire lo stress vuol dire che tu devi essere una persona integra che deve sopportare quello che ti viene rovesciato addosso, perché di fatto è così, cioè sia dal chi usa la struttura di servizio, sia dai colleghi, sia dal manager della struttura gerarchica. Devi mantenere l'allegria, diciamo. Sì. La flessibilità è un'altra competenza che ti viene richiesta, quindi flessibilità si intende in questo caso, secondo me, la flessibilità nell'orario di lavoro, cioè tu devi essere flessibile nel sempre disponibile, diciamo. Sì, e comunque flessibile anche non rigido, cioè se c'è qualcosa che ti fa arrabbiare, secondo me devi farlo passare, non è che devi essere flessibile, devi adattabile. Ecco. C'era una domanda, no? Sì, ma è su un punto successivo che... Devi... È un punto successivo che in realtà... No, devi andare sul microfono... È un punto successivo che in realtà ho anticipato leggendolo, dunque aspetto che tu lo menzioni e poi... Quindi l'ultimo punto è altre caratteristiche richieste, rispetto delle gerarchie prestabilite, e qui per la terza volta viene ribadito. Sì. Personalità allegra, frizzante ed estroversa, e questo si può ricollegare a quello che dicevamo prima, no? Sulla stress, flessibilità, eccetera. Attenzione alla cura personale, perché se ad esempio vai al lavoro con il grembiule sporco, è tua responsabilità che non te lo sei lavato. Quindi lo devi lavare tu, non te lo lava la gente. Sì, ovvio. Sulle divise purtroppo è molto più vicino. È storia vecchia, che la cura delle divise è sempre demandata al lavoratore e poi te ne danno, quando va bene, due, non più di due, quindi magari se ti si rompe la lavatrice, insomma, e le devi pure tenere da conto, e se sono ancora sporche è comunque colpa tua. Però la cosa più paradossale è che per preparare un gelato, per stare dietro a un bancone, insomma, per servire la zuppa inglese sia necessario essere allegri, frizzanti ed estroversi, che è abbastanza inquietante, sia mai che uno ci abbia un attimo uno sguardo un po' triste, depresso, mentre serve la zuppa inglese o il gusto amarena. Ma pensa, che però sarebbe tu, giusto servirlo con un po' di depressione. Però, gusto ma amarena, pensa tu. Fa schifo un po' a tutti. Ecco, però, ma pensa tu che lei ci ha anticipato proprio su questa qui un colloquio che adesso magari se le va ci racconterà, perché è proprio su questa cosa che hai tirato la fuori la frizzantezza. Esatto. Sì, poi qualche giorno dopo mi è praticamente ho avuto un colloquio così amichevole con una delle consulenti, perché già la conoscevo in precedenza, e lei così molto carinamente mi chiede... Allora, una domanda, la consulente aveva la tua età? Anche un anno più piccola. Ah, addirittura. E che ruolo aveva? Psicologa, sociologa? Sociologa. Psicologa. Sociologa. Ah, sociologa. Ok, dai. E lei così molto carinamente mi dice: ma come va questo lavoro, come ti trovi, come sta andando, ci sono dei problemi? Io le dico: no, tutto bene, alla fine ci vengo volentieri, è un lavoro che è dinamico, eccetera, riesco a... E alla fine, dopo tutta una serie di... mi fa: ma con il titolare hai avuto mai problemi? Ti ha mai ripreso su delle cose? Gli ho detto: guarda, no, praticamente magari su delle cose tecniche, ma per il resto tutto a posto. A parte che ogni tanto mi riprende sul fatto che non sono abbastanza sorridente. E mi fa: ah, ecco, brava. E alla fine della conversazione chiude la conversazione dicendo: mi raccomando, ridi di più. Ma è pazzesca questa cosa, è il consiglio dell'addetta ai lavori e della consulente specializzata. E questo però ci apre uno scenario sul, diciamo, l'oppressione di genere, o comunque sulla specificità di genere in questo tipo di lavori, perché essere frizzante e compagnia è chiaro che è al maschile e al femminile, ma penso, mi viene spontaneo credere, che la famosa bella presenza sia richiesta più alle ragazze, o sbaglio? Sì, la bella presenza è richiesta, è un requisito fondamentale, e sì, e soprattutto questo, ecco, mi fa pensare, non lo so, una riflessione così magari anche banale, dici: ma perché devi avere una bella presenza per poter lavorare in pubblico? Forse perché loro danno per scontato che attiri più clientela, perché se sei bella attiri più clientela, ma questa è fondamentalmente un ragionamento maschilista. Certo, anche perché la clientela che viene attirata da una lavoratrice di bella presenza è maschile, certo. Quindi si dà per scontato che il maschio si rapporti anche con chi serve il cappuccino in questo modo. Sì, ma infatti l'ambiente, vi lascio immaginare insomma che tipo di ambiente può essere, ecco, molto... Sì, ma deduco per esempio che è chiaro che magari non sarà capitato, però viste le premesse, che se un cliente fa degli apprezzamenti sulla barista o sulla ragazza che porta i tavoli il cappuccino o il gelato, questo deve essere accettato, tollerato, cioè non ci possono essere proteste da parte della ragazza, no, non fa certo. parte. Cioè fa parte della, come le chiamava prima, della fa parte della personalità allegra, frizzante ed estroversa, e quindi che deve tollerare sì. con bonarietà un po' tutto. Sì, e poi per chiudere, perché visto si sono fatte anche quasi le 9, ecco, volevo solo ribadire, insomma, secondo me da questa riflessione penso che una coscienza, diciamo, di classe possa essere molto di aiuto in questo caso, perché comunque ti fa riconoscere questi tipi di questo tipo di meccanismi di in qualche modo di asservimento di fidelizzazione all'azienda, anche perché i colleghi e le colleghe con cui lavoro sono tutti piccoli, comunque intorno ai 20 anni, 24. E tutti hanno accolto questo tipo di iniziativa in maniera molto frizzante, ecco. Disponibile, non l'hanno messo insomma in discussione, una cosa del genere. E quindi no, infatti questo invece è un risvolto importantissimo, perché è chiaro che l'azienda può proporre tutto quello che vuole per sfruttare sempre di più le persone al lavoro, però se dall'altra parte c'è resistenza e consapevolezza, in effetti il risultato, se ci fosse sì. il risultato sarebbe diverso. Basterebbe, ecco, già una consapevolezza, una coscienza già sarebbe, secondo me, sufficiente, ecco, per difendersi, ecco, per in qualche attuare modo, una sì. forma di difesa sì. che poi, diciamo, rispetto al neoliberismo, primo, questa è sicuramente una forma di difesa, e poi anche il fatto di non farsi coinvolgere, invece fare un'operazione contraria, cioè non farsi coinvolgere nelle sorti dell'azienda, tenere sempre una distanza sì, perlomeno implicita, perché magari poi tu puoi mostrare, no? Sì, sì. Buon viso a cattivo gioco, puoi mostrare, ok, però poi la coscienza che hai è differente, ti aiuta comunque a capire certi meccanismi, ecco, di sfruttamento magari. Certo, grazie tantissime. Grazie, come si dice, in bocca al lupo, grazie, crepino lupo. Tutti i cacciatori. Allora, siamo alla fine della trasmissione, vi ricordiamo che potete trovare le registrazioni, i contributi, e la parentesi e tutti i documenti che noi usiamo su coordinamenta.noblogs.org, che è il nostro blog. Ci potete scrivere a coordinamenta@autistiche.org e abbracciamo con affetto tutte e tutti quelli che sono privati della loro libertà e vi comunichiamo, cominciamo da adesso, anche se manca una settimana, che la coordinamenta, cioè la trasmissione I nomi delle cose della coordinamenta, la trasmissione La Conta e Sapienza, la trasmissione di Sapienza Clandestina faranno una festa di finanziamento per Radio Onda Rossa, perché è una radio che non vive d'aria ma vive dei liberi contributi di chi l'ascolta e di chi la sostiene. Faremo una festa il giovedì 18 dalle 6 in poi nello spazio, nel giardino occupato tra Serrande, sempre della Sapienza, e vi faremo avere comunque in questa settimana tutte le notizie, le date, ci sarà un complessino jazz che suonerà, quindi vi terremo informati. Comunque voi cominciate a segnarvi l'appuntamento e cominciate a pensarci. Grazie e alla prossima. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this, this is not really happening. Would just peel out the white wear.